Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 su Radio Big World. Settimana piuttosto interessante nel complesso, comprendente tra le altre cose il match previsto di regular season nel vecchio continente ed un Martin Luther King Day carico di sfide interessanti, compreso il ritorno del rematch della finale dello scorso anno, i Warriors ospitati alla Quick Loans Arena. Nella sfida tra Philadelphia e Boston di Londra, spunti di grande interesse anche in relazione alla classifica della Eastern. Boston arriva in Europa con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive ed il titolo conclamato e meritato di miglior squadra d'est d'inizio stagione. Effettivamente per quadrature è assolutamente impossibile eguagliare la squadra di coach Brad Stevens, stavolta di fronte ad un gruppo giovane e dal rendimento altalenante come Philadelphia 76ers, reduci in quel momento da 4 vittorie consecutive. I Sixers, come sappiamo, sono squadra di belle speranze, capace però di autentici blackout all'interno delle partite, così come nello storico del rendimento stagionale stesso. Squadra capace di infliggere ed immediatamente subire grandi parziali, all'accendersi o allo spengersi, dei giocatori con maggiori responsabilità in campo. La sfida di Londra conferma questo giudizio ancora una volta, con un avvio stellare segnato da un superbo JJ Redick, per il quale Embiid e compagni chiudono il primo tempo in discreto vantaggio, prima di subire il rovesciamento della medaglia nella seconda frazione. In questo, bisogna ammetterlo, c'è anche tutta la capacità difensiva di una Boston capace di alzare il livello nella metà campo meno spettacolare del gioco, fondamentale per punire offensivamente in risposta agli avversari. Il terzo periodo si conclude 37-22 per i Celtics, con il risveglio di un Kyrie Irving che chiuderà la partita con 20 punti, seppur con solo 7 su 20 dal campo, ma grazie soprattutto alla concretezza del tridente Brown, Horford e Jason Tatum. È proprio colui che oramai in tanti iniziano ad indicare come il favorito per il premio di rookie dell'anno ad impressionare ancora una volta per la sua maturità nel terreno di gioco. Offensivamente il suo livello di produttività è altissimo in relazione ai palloni che gli passano fra le mani, difensivamente poi ha l'attitudine perfetta da mixarsi con un fisico esplosivo. Nella sfida incrociata, dall'altra parte ancora una volta impressiona un Simmons capace di arrivare al ferro tutte le volte che vuole, con i soliti limiti riguardanti però le proprie capacità balistiche, mentre un Joel Embiid un po' spento chiude comunque in doppia-doppia. Per la verità, nell'ultima notte utile precedente alla nostra registrazione, che al solito si svolge di mercoledì pomeriggio, Boston soccombe in casa contro i Pelicans e soprattutto contro un Anthony Davis stellare da 46 punti e 16 rimbalzi. Tra l'altro, nella precedente sfida del tour ad est delle Twin Towers, al Madison Square Garden contro i New York Knicks, lo stesso ne aveva messi ben 48 con 17 rimbalzi, con conseguente W messa in cascina per New Orleans. Semplicemente pazzesco. Tornando a Londra, per un attimo facciamo il punto della situazione in casa Sixers. Per la squadra allenata da Brett Brown e Robert Covington, uno dei giocatori più in discesa in questa fase, con appena 7 punti di media nel mese di gennaio. Positivo invece l'apporto di TJ McConnell dalla panchina, confermato anche nella sfida contro Toronto, che segue la sconfitta di Londra nel Martin Luther King Day. Anche qui, Philadelphia dimostra di poter ampiamente tenere testa alla seconda forza della Eastern, proveniente da un periodo stellare a livello di risultati, seppur sconfitta in casa per appena 2 punti da Golden State nella sfida precedente. Siamo di fronte probabilmente alla solita Toronto, concreta e capace di macinare risultati nella stagione regolare, ma destinata forse a sciogliersi nella post-season quando il gioco si fa duro, comunque con un DeRozan da oltre 30 punti di media nel mese di gennaio. Anche in questa sfida i Sixers di un Embiid da 34 punti e 11 rimbalzi partono forte costruendosi un degno vantaggio, aiutati dal record di punti in carriera proprio per un McConnell da 18 punti alla fine. Toronto riesce ad entrare però in partita ovviamente negli ultimi minuti, quando è necessario che Simmons e compagni ritornino con la concentrazione sulla gara per riportarsi su un record pari al 50% tra vittorie e sconfitte in stagione. I Sixers e i New York Knicks continuano a bussare alla porta della top 8 da nona e decima forza d'est. Non sarà facile raggiungere i playoffs per loro, anche se io una monetina su Philadelphia me la sentirei di scommetterla. Miami si conferma quarta forza d'est con un Dragic stellare nell'ultima settimana e dal momento la squadra più in discesa del lotto appare Detroit. Tornando invece al Martin Luther King Day, come già anticipato, a Cleveland erano di scena i Golden State Warriors e non potevano arrivare sostanzialmente in un periodo peggiore, perché LeBron e compagni sembrano al centro di una vera e propria crisi di risultati. A proposito di periodi altalenanti, solo 3 vittorie nelle ultime 12 partite, contando anche la sconfitta per 118-108 proprio contro Curry e compagni in casa, affrontando in tutta questa striscia anche squadre di alto livello e soprattutto recentemente soccombendo in modo piuttosto clamoroso contro i Minnesota Timberwolves per 127-99 e contro i Toronto Raptors per 133-99. Se a tutto questo aggiungiamo un vantaggio sostanzioso dilapidato nel finale della sfida persa ad Indiana per appena 2 punti con LeBron James James a sbagliare i possessi decisivi, è naturale che si parli in modo piuttosto copioso dei limiti evidenti di Isaiah Thomas all'interno del roster, limiti principalmente difensivi, dove la sua limitata altezza produce sempre dei mismatch in svantaggio per lui, e di quelli in panchina di Tyronn Lue, inevitabilmente al centro delle polemiche quando le cose vanno male. La sensazione è che la quadratura del cerchio arriverà e che sarà proprio uno dei candidati al titolo di MVP, per la verità in un periodo di leggera flessione, a favorirla, anche se appare necessario forse un aiutino dal mercato di metà stagione. La posizione del centro appare indubbiamente di stretta attualità a Cleveland, laddove un Tristan Thompson, che sta producendo una delle stagioni peggiori della sua carriera, potrebbe essere usato come pedina di scambio, ovviamente insieme ad altri, o addirittura sacrificando la prima scelta dei Nets del prossimo draft per arrivare forse a DeAndre Jordan, o comunque ad un rim protector capace di poter dire la sua sotto i tabelloni, e non so quanti altri ce ne siano a disposizione del livello necessario ai Cavaliers, a parte il centro dei Clippers. Per il momento Golden State evidenzia la sua superiorità netta in una sfida decisa comunque nell'ultimo periodo, dove LeBron e compagni dimostrano comunque di saper restare aggrappati alla partita fino al crollo fisico inevitabile. Statisticamente prova magistrale di un Draymond Green ad un assist dalla tripla doppia, con anche 16 rimbalzi e 11 punti, 32 punti per Kevin Durant, 23 per Stephen Curry, 17 per Klay Thompson, tanto per citare sempre i soliti. Isaiah Thomas tira con 8 su 21 dal campo, per quanto le percentuali di squadra dei Cavaliers non siano di tanto peggiori in definitiva rispetto a quelle di Golden State. Il carro lo traina, con i denti, il solito LeBron James, 32 punti e 12 su 18 dal campo per lui, aiutato da Dwayne Wade da 10 punti partendo dalla panchina e da un Kevin Love da 3 su 5 da dietro l'arco, che tira però solo 9 volte complessiva in 27 minuti di gioco. Se da una parte quindi i dubbi aumentano all'avvicinarsi della chiusura della finestra di mercato di metà stagione, dall'altra, quella Warriors, si sorride per un'altra stagione che agilmente sta andando come previsto, con Golden State saldamente al comando della Western Conference, seppur privata della coppia Curry e Durant in numerose partite della prima metà di stagione da loro giocata, e seppur senza aver faticato troppo fino ad oggi. Chi risente notevolmente, sarebbe inevitabile, di infortuni ed assenze prolungate è invece Houston, che perdendo in una gara nervosissima contro i Clippers regala almeno per il momento il settimo posto in classifica a quella che un tempo era la seconda squadra di Los Angeles. Per gli ultimi 3 posti playoffs ci sono 4 squadre al momento sostanzialmente pari, e si tratta proprio dei Clippers, dei Nuggets, di Portland e dei Pelicans. Oklahoma City, delusione conclamata di questa prima metà di stagione a livello di impatto sul gioco della roboante campagna acquisti, sembra essere destinata a mantenersi stabile al quinto posto, mentre anche San Antonio sembra soffrire notevolmente le assenze per infortuni, scivolando al quarto dietro ad una Minnesota capace di rappresentare la sorpresa più concreta dell'anno, quantomeno ad ovest. Le 42 partite per franchigia sono state tutte superate, pertanto entriamo ufficialmente nella seconda metà di campionato, seppur ancora ad un mese di distanza da quella che è notoriamente considerata la pausa storica, cioè il weekend dell'All-Star Game. Proprio in seguito alla nostra registrazione verranno nominati 2 capitani delle 2 squadre delle stelle, i più votati del lotto, che avranno il compito di formare le loro 2 personalissime squadre capaci di sfidarsi nel weekend di Los Angeles. Ne parleremo in avvicinamento, anche perché comunque questa nuova soluzione strutturale non convince molto chi, come me, ritiene la partita un qualcosa di tremendamente noioso, destinata a perdere ulteriormente di interesse. Un interesse già progressivamente calato negli anni, per la verità. Un pizzico di curiosità semmai resta nel conoscere i competitor delle sfide del sabato, augurandosi di non incappare in una notte deludente come quella di 365 giorni fa circa. Chiudiamo questa settimana con un piccolo focus su Enes Kanter, il centro turco dei New York Knicks, che sta vivendo una stagione di altissima qualità ed indubbio valore nello scacchiere della squadra collegata al mercato più importante di America. Un focus figlio della sfida domenicale che i Pelicans hanno vinto al Madison Square Garden, dove un clamoroso Anthony Davis da 48 punti è stato al solito coadiuvato da un Cousins piuttosto sonnacchioso realizzativamente parlando, ma capace di tirar giù una caterva di rimbalzi proprio in faccia al turco di New York. Effettivamente, quando parliamo di Twin Towers pensiamo immediatamente a Davis e Cousins dei Pelicans, ma l'impostazione effettiva dei nuovi Knickerbockers non si discosta di moltissimo, offrendo al fianco del plurilodato lettone Kristaps Porzingis il lungo turco arrivato nella grande mela in seguito allo scambio di Carmelo Anthony. Con buoni 23 punti per gara di Porzingis, coadiuvati dai 14 di Cantera e con una media al rimbalzo di 6.8 per il primo, da sommare ai 10 di media per il secondo, senza dimenticare le oltre due stoppate per gara di Kristaps, stiamo parlando di una delle coppie di lunghi più prolifiche anche statisticamente all'interno della Lega. Una cosa non certo da poco, considerando l'inesistente attesa che sostanzialmente si celava dietro l'arrivo del turco a New York. Scelto come terza scelta assoluta del draft 2011 dei Jazz, Cantera ha faticato notevolmente nei suoi primi due anni nella Lega, seppur i sostanziali miglioramenti tra il secondo e quello da rookie abbiano spianato la strada ad un terzo anno di rilievo in quel di Utah. 12 punti per gara con 7.5 rimbalzi, partendo in quintetto per 37 volte su 80 gare disputate. Un salto di qualità per il quale, nella stagione seguente, che rappresenterebbe statisticamente quella della conferma in maglia Jazz, finisce in uno scambio a 3 di metà stagione, approdando così a Oklahoma City, dove in 26 partite si comporta piuttosto bene, 18 punti e 11 rimbalzi per allacciate di scarpe. A fianco di Russell Westbrook ed inizialmente anche di Kevin Durant, ma soprattutto dietro a Steven Adams, Cantor parte dalla panchina, producendo ottimi risultati in materia di impatto, almeno offensivo. Difensivamente non lo si può certo definire un rim protector, per quanto in ogni caso la sua grinta e la sua rissosità lo presentino comunque come il potenziale protagonista di qualche fallo duro sotto canestro. Arriva a New York in estate insieme a McDermott e dal momento sta producendo la sua miglior stagione in carriera in assoluto, attestandosi su una doppia-doppia per gara, la sua seconda volta in carriera, seppur la prima risalga alla seconda metà di stagione del passaggio da Utah a OKC. A fianco di Porzingis, che indubbiamente risulta più intimidatore nel lato difensivo del campo, Cantor contribuisce con una discreta quantità di palloni recuperati al rimbalzo, non facendosi mancare canestri importanti anche in momenti critici. Divenuto autentico beniamino in una stagione di evidente transizione per New York, dove una squadra apparentemente poco stabile può sperare di lottare per l'ottavo posto a fine stagione, Cantor ad oggi è sempre partito a fianco del collega lettone nello starting five della squadra, e la sensazione è che questa squadra possa mancare semplicemente di un innesto di valore per sostare stabilmente nella top 8 ad est. Nel frattempo, da idolo cittadino che è divenuto il buon Cantor, si è pure permesso di mettersi nei guai, almeno virtualmente, da un punto di vista politico, almeno rispetto al suo paese di origine. In realtà il buon Enes è nato in Svizzera da genitori turchi nel 1992, ma in Turchia ha ovviamente vissuto e giocato a livello giovanile, ovviamente partecipando anche alle spedizioni nazionali, tanto da sentirsi in dovere di dire qualcosa rispetto al discutibilissimo presidente Erdogan, definito come una sorta di Hitler moderno da lui stesso. Notizia di fine dicembre: per aver pubblicamente deriso e diffamato il presidente, il povero Cantor rischia di essere processato e condannato fino ad un massimo di 4 anni proprio nel suo paese, per quanto contemporaneamente alla pubblicazione di tale notizia sia definito lottatore per la libertà del suo popolo, ribadendo quanto Erdogan si meriterebbe di peggio a livello di appellativi, per quanto preferisca ovviamente fermarsi sul già detto. La situazione è comunque piuttosto seria, laddove Cantor è al momento dichiarato persona non grata e nemico pubblico del popolo turco, tanto che il padre è stato costretto a disonorarlo pubblicamente e la sua famiglia passata a setaccio attraverso varie perquisizioni ed intimidazioni dalle forze di polizia mosse dai vertici governativi. In attesa di un'auspicabile risoluzione diplomatica della faccenda, meglio per Enes concentrarsi sui Knickerbockers e sulla difficile sfida di tornare alla post-season dopo sostanzialmente una vita, forte di quella che possiamo definire la miglior stagione di sempre ad oggi dell'ex giocatore del Fenerbahce. Benissimo, siamo giunti al capolinea anche di questa puntata settimanale. Oltre a ringraziarvi per l'ascolto ed invitarvi a visitare la nostra pagina Facebook NBA Week, arricchita settimanalmente anche da approfondimenti testuali relativi a momenti e giocatori storici del passato della Lega, vi ricordo gli appuntamenti per poter ascoltare la nostra trasmissione. Tutti venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 su Radio Valdarno. Noi ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week.